di Persefone agli inferi ti porterei e calo nella rete degli sguardi ammiccanti, cedo assuefatta dall'irriverente odore della pelle tua e besame, besame mucho. Bésame, bésame mucho. E questo fuego che brucia la vita e balla dentro di me, io lo vedo arrampicarsi sulle torri dell'anima. Questo fuego che brucia, che vive, che sogna con me. Neanche un bagno nell'oceano, neanche un bagno nell'oceano potrebbe spegnere. Fuego, se fossi il sole franca, potrebbe spegnere.